Gli ordini del giorno riguardavano uno la possibilità di mantenere, di iscriversi per i richiedenti asilo, di iscriversi all'anagrafe, cioè di avere la residenza. Il secondo riguardava invece la necessità che il comune faccia delle comunicazioni ai propri uffici, ma anche ad altri uffici pubblici, in modo da garantire quello che il decreto 113 stesso prevede, cioè che tutti i servizi erogati sul territorio siano erogati per la appunto sulla base del solo domicilio, dunque a prescindere dall'iscrizione anagrafica. Queste erano le due questioni affrontate oggi, oltre a quello dello stravolgimento del sistema di accoglienza recato dal decreto 113, dal decreto sicurezza. Ecco, andiamo con ordine, diciamo, partirei dalla prima, cioè se ci puoi spiegare un po' più nel dettaglio come si può fare appunto per l'iscrizione anagrafica. Allora, la questione della residenza a mio avviso è abbastanza chiara, nel senso che il decreto 113 ha modificato il decreto legislativo 142 del 2015 stabilendo che il permesso di soggiorno, e questo vale solo per i richiedenti asilo, anche questo è un aspetto da chiarire, non riguarda chi è già riconosciuto titolare di una qualche forma di protezione o gli stranieri che hanno altri tipi di permesso di soggiorno, riguarda solo i richiedenti asilo. Ora, il decreto sicurezza ha modificato il 142 del 2015 dicendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non è titolo idoneo per l'iscrizione anagrafica. Questo, come viene interpretato correntemente, viene inteso come un divieto di iscrizione anagrafica. In realtà non è così, perché dire che il permesso di soggiorno non è titolo idoneo non vuol dire vietare la residenza, come per esempio è stata fatta con il decreto Lupi nel 2012-2013, vietando se non c'erano determinati requisiti soggettivi. Questo cosa significa? Significa che per garantire il diritto all'iscrizione anagrafica noi dobbiamo andare a vedere quali altre norme della legge sui cittadini stranieri disciplina l'iscrizione anagrafica. E allora noi abbiamo a riferimento l'articolo 6,7 del testo unico immigrazione, quello del 98, che dice che gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno diritto all'iscrizione anagrafica a parità di condizioni con i cittadini italiani. Questo significa che se il permesso di soggiorno per richiesta asilo non è più un titolo idoneo per l'iscrizione anagrafica, noi dobbiamo andare a individuare altri titoli che dimostrino il requisito principale che la legge chiede, cioè la regolarità di soggiorno. Per i richiedenti asilo la regolarità di soggiorno è dimostrabile attraverso altri documenti, come per esempio il modello C3, che è il verbale amministrativo che la questura, identificando il soggetto, forma al momento della formalizzazione della richiesta di protezione internazionale. Quello è un documento che consente la regolarità della permanenza del richiedente asilo sul territorio nazionale, gli vieta l'espulsione proprio perché richiedente asilo e attesta, come ho detto, la regolarità del soggiorno. Perciò i comuni dovrebbero interpretarla in questa maniera, cioè coordinando quello che è la modifica portata dal decreto 113 con quelle che sono le norme generali che non sono state modificate, pur avendone avuto l'occasione, dal decreto sicurezza, e consentire l'iscrizione anagrafica anche per i richiedenti asilo. In questo modo, peraltro, l'ente locale avrebbe piena cognizione della popolazione residente sul proprio territorio, potendo razionalizzare l'azione che riguarda per esempio tutta anche l'erogazione di tutti i servizi, la distribuzione anche delle risorse ai vari servizi, perché se io so che ho 100 persone che hanno bisogno di assistenza sociale oppure di piano freddo oppure di qualsiasi altro servizio, è diverso che avere invece una platea di persone molto più ampia che io non posso conteggiare originariamente. Questa era la questione che riguardava la residenza, per cui noi anche come associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione abbiamo chiesto che il comune si prenda l'impegno di iscrivere all'anagrafe anche i richiedenti asilo. Questo per quanto riguarda la residenza. Per quanto riguarda invece l'accesso ai servizi, come dicevo prima, è il decreto sicurezza stesso che lo precisa, dicendo che la l'accesso ai servizi sul territorio deve essere garantito al richiedente asilo sulla base del solo domicilio. Perciò non può essere chiesta la carta d'identità per l'apertura di conti correnti, non può essere richiesta la carta d'identità per la stipula di un contratto di lavoro, per l'accesso al servizio sanitario nazionale, cioè per l'iscrizione all'ASL, non può essere chiesta più la carta d'identità perché quella disposizione del decreto sicurezza supera la necessità di avere il requisito della residenza, e questo deve essere chiaro. Nonostante sia molto chiara la disposizione di legge, abbiamo moltissime segnalazioni di mancata iscrizione al servizio sanitario nazionale, di datori di lavoro che non vogliono stipulare un contratto di lavoro perché non c'è la carta d'identità, di molte banche, se non tutte, che si rifiutano di aprire un conto corrente se non c'è la carta d'identità, e questo lede, viola il diritto al lavoro che anche il richiedente ha dopo 2 mesi da quando ha formalizzato la domanda, e perciò incide su un diritto fondamentale della persona. Per cui abbiamo chiesto che il Comune emani delle direttive, delle comunicazioni, ripeto, ai propri uffici ma anche ad altri enti che operano servizi di rilevanza pubblica come sono le banche, le associazioni dei datori di lavoro, le ASL stesse, di modo che venga garantito comunque l'accesso a quei servizi sulla base del solo domicilio. Ecco, l'ultimo punto era poi quello del sistema dell'accoglienza, che è anche quello più discusso in questo periodo, quindi ti chiederei anche velocemente che cosa si è detto in questo senso, soprattutto sulla questione dell'Hub piuttosto che sulla dismissione o meno. Sulla questione dell'Hub, una consigliera del PD, la Mazzone, ha evidenziato la criticità, e noi lo condividiamo, l'abbiamo già segnalato anche in sede di conferenza metropolitana dei sindaci, l'irrazionalità di convertire l'Hub Mattei in un CAS, cioè in un grande centro straordinario di accoglienza che va in direzione completamente opposta a quello che è stato il sistema, che pur presentava delle criticità ma non di questo tipo, il sistema bolognese, che ha cercato da tempo di armonizzare il sistema dei centri straordinari di accoglienza con il sistema SPRAR, con un modello di accoglienza diffusa, cioè piccoli centri, appartamenti, distribuzione razionale sul territorio, eccetera eccetera. Invece la scelta della prefettura, e noi speriamo che contiamo e chiediamo al comune di opporsi a questa scelta della prefettura di convertire l'Hub in un grande centro, è assolutamente irrazionale. Cioè è come se non si rendessero conto che i grandi centri, e ne abbiamo una lunga esperienza purtroppo in Italia e in altre zone dell'Italia, sono state il bacino della criminalità italiana, della illegalità italiana, oltre al fatto che concentrare moltissime persone fuori dal territorio urbano e comunque concentrarle in attesa di far niente, perché con i nuovi bandi, con il nuovo sistema dell'accoglienza non vengono più garantiti i servizi, per esempio, di orientamento sul territorio, orientamento al lavoro, orientamento legale, servizio psicologico, eccetera eccetera, per cui queste persone rimarranno lì in attesa 1 anno, 2 anni, 3 anni per avere certezza della loro condizione, ed è chiaramente una bomba sociale che poi si riverserà sul territorio, ai danni anche dell'ente locale, che dovrebbe avere un interesse pubblico a gestire razionalmente il proprio territorio. Questo senza dimenticare che la ristrutturazione, la riforma del sistema di accoglienza e la riduzione a metà della spesa pro capite della gestione dei centri straordinari di accoglienza, dei CAS, già ha comportato una enorme riduzione dell'occupazione anche italiana, soprattutto italiana, e questo anche è un problema che la politica e anche gli enti locali si devono prendere a mano, ovviamente. Queste sono le tematiche, ecco, che sono state discusse oggi. Comunque mi fa piacere che la commissione rimanga aperta, cioè nel senso che verranno, non lo so quando, adesso la tempistica amministrativa non la so, verranno fatte delle nuove sedute per monitorare volta per volta, periodo per periodo, quelle che sono le criticità che si formano a seguito del decreto sicurezza.